Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo chiaramente sulle pensioni, ricordo anche il grande approfondimento che ne ha fatto oggi il Sole 24 Ore. Ieri abbiamo dato la notizia praticamente quasi in diretta, ma torneremo sul tema delle pensioni per capire anche con alcune simulazioni che cosa cambia dopo quanto annunciato ieri dal ministro Poletti ai sindacati in tema di quattordicesima anche per chi ha fino a 1000 euro di pensione, quindi allargando la platea da 2 milioni e 2 a un altro 1.200.000 pensionati, aumenta di circa il 30% per i 2 milioni e 100.000 persone che comunque già la percepiscono. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Nella prima ora, come promesso, torneremo sul tema della crisi che stanno attraversando i trasporti marittimi, che riguarda vicino anche l'Italia e tutte le migliaia di lavoratori coinvolti su questo, ma parleremo come sempre anche di borsa. Allora, la borsa in questo momento guadagna 0,5 punto percentuale a Milano, Parigi più 0,30, Francoforte meno 0,40, Londra più 1%, Dow Jones meno 0,20, euro su dollaro a quota 1,12. Tra i titoli segnalo il calo più significativo, che è quello di ST Microelectronics, tra quelle maggiore capitalizzazione, meno 3%, Luxottica meno 2,70, UBI meno 2,5%, Hughes Net-a-Porter meno 2,20, come Unipol il 2%, Europea del Monte dei Paschi l'1,80, Telecom, Mediobanca meno 1,70, Buzzi Unicem meno 1,5%, come Moncler. Chi va bene particolarmente forte oggi? Tenaris più 8,50%, Saipem più 5,80, Eni più 4,20, e qui ne parleremo. C'è notizia, nel senso, come capite, insomma, è tutto il settore del petrolio o dei titoli legati al mondo del petrolio e delle condotte, delle pipelines come Tenaris. C'è un accordo sulla produzione che scende a 32,5 milioni di barili, ne parleremo nel corso del programma, avremo un approfondimento anche su questo, proprio perché era tanto atteso accordo per riuscire a riportare il petrolio, questo nell'interesse dei paesi produttori, chiaramente non nel nostro interesse, sopra gli attuali livelli di 43, 44, 45 dollari al barile. C'è già stata una prima reazione, oggi torna sopra i 47 dollari più 6% dopo l'annuncio che pur con molta difficoltà si sta arrivando a un accordo. La produzione scenderà a 32 milioni e mezzo di barili al giorno, è il primo taglio in 8 anni. Pagherà soprattutto l'Arabia, l'Iran è salvo, nel senso che si farà scendere il tetto della produzione soprattutto di Arabia Saudita. E tra l'altro l'ufficialità di questa cosa dovrebbe arrivare però il 30 novembre a Vienna, ma insomma tutti i mercati sono convinti che l'accordo sia un dato di fatto. Ancora per quello che riguarda gli altri titoli, oltre a quelli legati al petrolio, c'è A2A che guadagna l'1,60%, CNH più 1,5%, Azimut più 1,20%. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, oggi è anche il giorno in cui gli Stati Uniti rivedono al rialzo, beati loro, il PIL del secondo trimestre più 1,4% contro l'1,3% in seconda lettura. Sul fronte auto, mentre oggi inaugura il Salone dell'Auto, da questo punto di vista abbiamo dei dati sia sul nuovo imbarazzo Bruxelles per il caso dell'ex commissario dell'Unione Europea ai cambiamenti climatici, la danese Connie Hedegaard, che ha accettato un incarico da Volkswagen. Dopo la Kreuz, che è olandese, anche lei finita nella lista di chi aveva incarichi con società esterne, insomma, non voglio fare tutto nebbia un fascio, ma sono due commissari del Nord Europa. Come sempre la critica è che questi conflitti di interesse, queste commistioni, questa poca trasparenza è tipica dei paesi del Sud Europa. Beh, insomma, Schröder, che se non ricordo male è l'ex cancelliere tedesco, si è preso l'incarico di mega consulente di Gazprom per il Nord Stream, pure quello. Barroso, quello sì, portoghese, è andato a lavorare per un'importante banca d'affari. La Kroes si scopre che aveva una consulenza con una società e fondi all'estero, e adesso l'ex commissario dell'Unione Europea ai cambiamenti climatici danese, Conny Hedegaard, ha accettato un incarico da Volkswagen. C'è una prima dichiarazione del portavoce della Commissione Europea, Margaritis Schinas, che afferma a prima vista sembra che Hedegaard non avrà una posizione manageriale nella compagnia, però stiamo accertando. Dovrebbe diventare membro di un nuovo consiglio internazionale che farà consulenza al board Volkswagen. Nel frattempo il gruppo Volkswagen lancia al Salone di Parigi la sua offensiva sul programma, diciamo, di sostenibilità. 30 veicoli energetici entro il 2025, e lancerà anche un nuovo brand del gruppo legato proprio ai servizi di mobilità. Il lancio è previsto a novembre. Nel frattempo, oggi arrivano due notizie anche buone dalla Ferrari, nel senso che Enrico Galliera, che è il direttore commerciale marketing, ha incontrato i giornalisti al Salone dell'Auto di Parigi e ha detto che insomma la performance di Ferrari è molto positiva, non abbiamo mai avuto una gamma di prodotti così forti, belle, di successo. E proprio al Cavallino Rampante e le sue produzioni sono dedicati 100 secondi di Radio 24 oggi, a firma, trasmessi anche su RDS, a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Il Salone dell'Auto di Parigi si è aperto e con una sola star. La star è la Ferrari, ovviamente, la Ferrari aperta, il nuovo gioiello della casa di Maranello, in vendita più di 2 milioni di dollari, 2,1 milioni per l'esattezza, 200 veicoli prodotti, già tutto esaurito prima ancora della consegna ufficiale della prima macchina all'acquirente. Una febbre delle supercar che da un lato sembra contrastare con i tempi di crisi che ancora girano per il mondo, ma che in realtà continua ad attrarre i miliardari che sono disposti persino a far causa a Marchionne pur di averne una. Tant'è vero che un collezionista americano che a cui era stata rifiutata la vendita dell'auto, addirittura ha fatto causa alla casa di Maranello. Prima ha inviato un assegno da 1 milione di dollari come caparra a Marchionne e poi ha presentato una denuncia perché gli era stato rifiutato il veicolo. Non si sa come andrà a finire, l'unica cosa che si sa per il momento è che questo collezionista, dopo un colloquio con la Ferrari, ha ritirato la causa dicendo che ci sarà presto un annuncio congiunto con Maranello. Ma comunque sia, un fatto è chiaro: malgrado i tempi difficili, il Cavallino Rampante continua a correre, a prescindere dal costo e a prescindere dalla congiuntura. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, intanto in Germania, ci spostiamo in Europa, finisce davanti alla Corte di Giustizia Europea e finisce la Germania di fronte alla Corte di Giustizia Europea per la tassa di circolazione sulle sue strade imposta di fatto solo agli stranieri. La Commissione Europea quindi va avanti con la procedura di infrazione aperta contro la Germania un anno e mezzo fa, in quanto la nuova legge tedesca sui pedaggi, sia per i passeggeri sia per le merci, prevede una deduzione dell'imposta del 100% per quelli immatricolati in Germania, discriminando quindi i guidatori non tedeschi. Cioè, se lo si può fare, se si può fare, lo devono poter fare tutti. Da noi c'è una polemica molto forte da questo punto di vista, per quello che riguarda gli autisti, avete visto il dramma nello scorso fine settimana, gli autisti stranieri che non rispettano le regole e non vengono controllati, che partono dalla Slovenia piuttosto che da altri paesi dell'est Europa, sono tendenzialmente guidano ore illegali, cioè non rispettano le pause, ahimè purtroppo ci sono anche gli incidenti, e fanno concorrenza completamente sleale ai nostri autotrasportatori. Ora, io non dico che la misura tedesca non possa essere un modo per tutelare, per esempio, il trasporto merci di chi ha il mezzo immatricolato in Italia o in Germania, però devono poterlo fare tutti i paesi, perché se invece noi accettiamo la liberalizzazione, la Germania di fatto non può restringere aumentando, creando un'imposta solo per chi non è immatricolato in Germania. Continua intanto il tour tedesco di Mario Draghi. Dopo il suo intervento al Bundestag di ieri, oggi ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel, l'esperto delle finanze dei cristiano sociali tedeschi e cristiano democratici, quindi la parte della politica tedesca più ostile a Draghi. Ebbene, l'esperto di finanza, lui si chiama Hans Michelbach, ha giudicato fallita l'azione della BCE. L'attuale politica finanziaria conduce a un'unione dei debiti e delle garanzie. E non ha potuto rispondere alla domanda su quanto questa politica potrà finire. Sì, mi piacerebbe che tale Hans Michelbach ci dicesse anche cosa avrebbe fatto lui in questi anni, cioè quando stava per saltare l'euro, perché grazie all'atteggiamento tedesco, non è detto che la Grecia resti nell'euro, la speculazione mondiale sarebbe messa ad attaccare Portogallo, Spagna e poi Italia. Vorrei capire cosa avrebbe fatto lui e se non c'è un minimo di ancora più rigore, eliminiamo l'accesso facile alla liquidità, ok, torniamo a aumentare i tassi di interesse, e questa è la ricetta tedesca. No, voglio capire, perché a criticare siamo tutti bravi. Io ricordo una Germania che dopo aver fatto la faccia feroce si è ricreduta quando veramente la Grecia stava per saltare per aria, e una Germania in estrema difficoltà che ha salvato Mario Draghi sostanzialmente per il cul-de-sac in cui aveva infilato l'intera area euro, con l'idea che non è detto che tutti i paesi restino nell'euro. Era il 2011, soprattutto anche il 2012. Commerzbank intanto taglia in Germania quasi 10.000 posti di lavoro, 7.300 al netto dei nuovi che verranno creati. Un piano di ristrutturazione pesante, previsti costi di ristrutturazione per 1 miliardo e 100 milioni di euro. Commerzbank, che è l'altro colosso tedesco in difficoltà assieme a Deutsche Bank, prevede un terzo trimestre di nuovo in perdita. Vediamo l'Italia invece, dove il Tesoro oggi ha fatto il pieno all'asta dei BTP a 5-10 anni. I tassi sono leggermente in rialzo, però ha collocato interamente all'1,21% i BTP a 10 anni contro l'1,14%, comunque stiamo sempre parlando di un rendimento lordo per 10 anni all'anno dell'1,21%, e invece il BTP a 5 anni, quindi scadenza gennaio 2021, anch'esso molto forte la domanda di collocamento, collocati 4 miliardi a un tasso dello 0,28 contro lo 0,19%, cioè in questo momento c'è tanta di quella liquidità, i tassi sono così bassi che uno accetta di prestare soldi allo Stato italiano per 5 anni avendo come ritorno un interesse dello 0,28% lordo all'anno, cioè praticamente niente. Parleremo poi anche di alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito proprio all'Europa e alla manovra. Faccio notare, andando a chiudere questa prima parte, perché poi di pensioni ci occupiamo dopo, che nel documento economico finanziario il governo si aspetta una spinta alla crescita di 0,4 punti percentuali in più rispetto al tendenziale, dello 0,6 all'1%. Però il risultato potrebbe essere anche maggiore, dice il DEF, se si sfrutterà la possibilità di aumentare il deficit dal 2% fino allo 0,4% in più, cioè fino al 2,4%. Ma soprattutto nel DEF si stima che le conseguenze della Brexit sull'Italia siano quantificabili in un calo del PIL nel biennio tra 2016 e 2017 tra lo 0,5 e il punto percentuale. Per quello che riguarda invece i soldi chiesti al Parlamento dal governo per utilizzare margini di bilancio sul tema sisma, quindi emergenza sisma in Centro Italia e emergenza migranti, complessivamente l'importo varrà al massimo 7 miliardi e 700 milioni di euro, che poi sono gli 8 miliardi di maggiore flessibilità quasi in più che abbiamo ottenuto. Allora, mentre oggi viene condannato Ignazio Marino a tre anni, un mese e 10 giorni sugli scontrini, ma non voglio anticipare la rubrica di domani, e il Campidoglio ha chiesto 600.000 euro di danni a Marino, danno d'immagine per caso scontrini della vicenda dell'Onlus. L'ultimo tema che voglio affrontare in breve è quello che è emerso 2 giorni fa, il ponte sullo stretto. Io spero che, con tutto il rispetto, però non ci si innamori troppo delle chiacchiere sul ponte sullo stretto. Ne abbiamo parlato ieri anche con l'amministratore delle Ferrovie dello Stato, insomma ci sono altre priorità in questo paese. Comunque, oggi il presidente dell'ANAS Gianvittorio Armani ha detto, vabbè, intanto ha confermato che le tappe di fusione tra FS e ANAS sono e arriveranno attraverso la definizione di un nuovo contratto di programma, comunque entro metà del 2017, e lo ha ricordato al microfono la nostra Chiara Piselli, aggiungendo anche che con una realizzazione del ponte sullo stretto fatta dal nuovo soggetto ANAS e FS, cioè ANAS dentro le Ferrovie dello Stato, si avrebbe una riduzione degli oneri. Stiamo lavorando per questo, ovviamente poi i progetti, ci diamo degli obiettivi per raggiungerli, non abbiamo la disponibilità ovviamente di tutti gli elementi che ci consentono di realizzare l'operazione, però ci crediamo, riteniamo che sia utile, crea tantissimo valore per gli italiani in termini di maggiore efficienza e maggiore capacità di essere competitivi all'estero, con un soggetto infrastrutturale all'altezza della competizione internazionale. Ponte sullo stretto ovviamente è una scelta politica farla, l'osservazione da cui noi partiamo dal punto di vista trasportistico è che è un abilitatore della connessione e dello sviluppo delle infrastrutture, in particolare ferroviarie, per un decimo della popolazione italiana che oggi non ha accesso al mercato ferroviario europeo in quanto isolato. Dal punto di vista dei costi invece è chiaro che le infrastrutture hanno come costo principale il costo del capitale. Quando si riesce ad abbattere il costo del capitale, il costo del denaro, evidentemente le infrastrutture diventano accessibili. E il paradosso dell'infrastruttura ponte è che il costo dell'opera stessa è circa 4 miliardi di euro, a questi si aggiungono 2 miliardi e mezzo, oltre 2 miliardi e mezzo di interessi che sono quelli del costo del capitale. Ecco, se noi riusciamo a trovare soluzioni in cui il costo del capitale e quindi il rischio associato all'infrastruttura viene abbattuto, questo fa costare molto meno l'infrastruttura stessa e quindi lo rende accessibile, possibile e realizzabile. Allora, devo fare una rettifica, chiedo venia in primo luogo anche all'ex sindaco Ignazio Marino, ho detto forse per una crasi condannato, no, è la richiesta del PM, ci mancherebbe. La richiesta del PM è condannate, forse si è capito male per questo motivo, Ignazio Marino a 3 anni e un mese e 10 giorni, e così come è una richiesta quella del Comune di Roma, dall'Avvocatura di Roma Capitale, all'ex sindaco Marino di 600.000 euro di danni, sono richieste. Allora, restiamo invece in tema di trasporti, ma per occuparci del trasporto marittimo devo riprendere un po' le file, perché la vicenda continua a crescere e a conoscere nuovi episodi. Tutto assurge agli onori della cronaca quando lo scorso 31 agosto uno dei colossi mondiali del trasporto cargo, il sudcoreano Hanjin Shipping, dichiara bancarotta. A quel punto succede che 86 navi con carichi da 15 miliardi di dollari navigano in mare aperto senza che nessun porto li voglia accogliere, per timore che non abbiano i soldi per pagare i servizi portuali. La fermata in un porto per uno scarico costa in media 35.000 dollari. Ora, a quel punto scopriamo, tra virgolette, una cosa che gli addetti ai lavori già sanno, cioè che l'intero settore dello shipping, del trasporto merci, è in estrema difficoltà. 11 dei 12 più grandi operatori mondiali hanno riportato perdite ingentissime. E c'è una ricaduta anche bancaria. La BCE infatti si è messa a monitorare l'esposizione delle banche dell'area euro verso questo settore. La Germania è l'area più problematica. Le prime 5 banche tedesche hanno a bilancio prestiti per lo shipping che valgono, come tutte le sofferenze italiane nette, lo dico in maniera molto chiara, 80 miliardi di euro. Commerzbank già nel 2012 era uscita, però ancora a bilancio 8 miliardi di euro di prestiti verso i trasportatori marittimi. Allora, la domanda è, insomma, qui è un problema di Anjin Shipping, che in effetti dal 2011 chiudeva bilanci in perdita, ma poteva contare sul credito delle banche. Pensate che la sudcoreana Anjin Shipping ha accumulato 5 miliardi e mezzo di debiti, oppure, e rappresentava il 3% del traffico mondiale, oppure è un problema generale. Allora, i numeri qua sono importanti, e ringrazio per averci raggiunto in collegamento di nuovo Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, che è l'associazione degli spedizionieri, corrieri e trasportatori di Genova, fondata da 13 imprenditori. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi tutti. E voi con Anjin Shipping avete firmato proprio una polizza fideiussoria. E grazie anche al presidente di Federagenti, che è la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi, Gianenzo Duci. Buonasera. Buonasera. Allora, di solito vi voglio dare due cifre agli ascoltatori, poi lascio dopo il metodo parlare voi. Un viaggio da Busan, Corea del Sud, a Los Angeles dura circa 10 giorni. Un viaggio attraverso il canale di Suez fino a Rotterdam può durare anche un mese. Una nave in media, perché poi ci sono le super Panamax si chiamano, giusto? Le grandi. È in grado di trasportare 8.000 container, più o meno lunghi 6 metri, costo di gestione di 7.500 euro al giorno. E una nave del genere che viaggiasse a una velocità di 17 nodi consuma dalle 80 alle 85 tonnellate di olio combustibile al giorno. Tra l'altro, il settore marittimo, sia quello dei container, sia il cosiddetto bulk, cioè il trasporto sfuso di minerali, liquidi, granaglie o altro, è dominato da pochissime grandi compagnie e vince chi con l'economia di scala riesce a tagliare i costi. Tant'è che stanno aumentando enormemente le dimensioni medie di queste navi, ecco perché parlavo del modello Panamax e Super Panamax, cioè è cresciuto di oltre il 90%. Il colosso danese, che è la prima compagnia mondiale, è Maersk, ha messo nel 2013 in servizio navi capaci di trasportare più di 18.000 container, sono 20 piedi, si parla di TEU, 20 foot equivalent unit, perché la misura standard sono 20 piedi. Praticamente, se mettessimo in fila questi container, avremmo un serpente di 108 km su un'unica nave. Adesso si va verso i 22.000 TEU, quindi container, misura del container equivalente. Domanda a Botta: ma com'è possibile che con questi investimenti, con questa attenzione ai costi, 11 compagnie mondiali su 12 siano in grave difficoltà? Ma guardi, il tema nasce proprio da quelle che sono state alcuni anni fa le scelte strategiche che le primarie compagnie armatoriali del mondo hanno deciso di fare. La decisione è stata quella di scommettere su navi di portata rilevante. Lei ha citato navi da 12, 15, 16 mila TEU, ci sono ordini nei cantieri ancora attivi per navi che supereranno anche i 22.000 TEU. Si cercava quindi di trovare nella capacità di trasporto la possibilità di creare delle economie di scala, quindi ridurre poi il costo per unità trasportata. Di fatto però cosa è venuta a mancare? È venuta a mancare la merce. In un momento in cui l'economia mondiale ha in senso generale rallentato la propria crescita, va da sé che le stive di queste navi sono rimaste vuote, quindi ci si è trovati in una situazione in cui, a fronte di importantissimi investimenti, a cui tra l'altro il settore bancario a cui lei accennava ha partecipato in maniera importante, non hanno trovato risposta sufficiente nella capacità di essere riempite da merce circolante nel mondo. Questo ha creato un forte fenomeno di inflazione tra l'offerta di stiva, così come viene detta in termine tecnico, e la capacità, ecco, di colmare e di riempire queste navi. Il problema nasce da qui, nasce da questa che è stata una valutazione strategica che ad oggi tutti ci apprestiamo a commentare in maniera estremamente negativa, ma che presentava dei punti di debolezza, una vera e propria scommessa che è stata compiuta alcuni anni fa da queste compagnie armatoriali. Allora, dopo il meteo vorrei sapere invece, anche da Ducci, che cosa rischiano invece i lavoratori, che sono non solo i marittimi e portuali, ci mancherebbe, ma anche tutto il mondo dei servizi, appunto degli agenti e anche degli spedizionieri, da questo eccesso, se ho ben capito, di offerta, eccesso di domanda, scusatemi, quindi di navi, anche delle super, si chiamano Super Panamax, dico bene o sbaglio? Paradossalmente le navi. Uno dei due, Ducci. Le navi da 18.000 sono ben superiori anche alle Super Panamax. Oggi le si chiama Super Post Panamax, quindi e poi siamo ci sarà Super Post Panamax. Quindi. Va bene, no, ma questo è un tema delicato anche per i nostri porti, non posso parlarne ora perché se non draghiamo e li mettiamo a posto alcuni porti, queste navi così grandi non riescono a attraccare da noi e vanno a Rotterdam o Anversa, però non voglio aprire anche questo tema e lì necessitiamo di una politica portuale nazionale, ecco perché il ponte sullo stretto non sta in piedi se non è all'interno di una politica in cui ci dite cosa fate dei porti siciliani, calabresi, laziali, liguri e anche del raddoppio ferroviario in Sicilia, tutto questo, allora lì puoi ragionare su un ponte, detto così se no, vabbè. Dopo il meteo invece che cosa rischia il nostro settore del trasporto marittimo? 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora Ducci, che cosa rischia l'intero settore del trasporto, dello shipping, che vuol dire per noi compagnie che fanno trasporti, agenti come quelli che le rappresenta e poi anche spedizionieri, insomma non è solo il mondo dei portuali in senso stretto, prego. Sì, allora il caso Hanjin credo che non sia stato ancora compreso nella sua effettiva portata e dimensione, perché il trasporto via mare ha rappresentato in questi anni il tessuto connettivo della globalizzazione. Se viene messo a rischio o se l'industria incomincia a pensare che il trasporto via mare non è più qualcosa di sicuro, ecco che una delle determinanti della globalizzazione rischia di essere messa in gioco e quindi gli effetti rischiano di essere estremamente oltre il settore semplice del trasporto. Perché noi qui oggi in Italia abbiamo in gioco che cosa? Abbiamo in gioco merci in import e in export. Stiamo parlando di merci che rischiano di non arrivare sui mercati di sbocco per il periodo di punta dell'anno, stiamo parlando dell'elettronica coreana che rischia di non arrivare sui mercati per Natale e del nostro export per circa tra i 500 e 750 milioni di euro che non arriva sui mercati del Far East e un altrettanto ammontare di merci che rischia di non arrivare per tempo sui nostri mercati. E stiamo parlando di prodotti finiti e semilavorati, perché il trasporto containerizzato rappresenta più o meno il 20% delle navi che girano per il mondo, ma rappresenta più del 50% del valore delle merci che si muovono via mare per il mondo. E quindi questo è un elemento. Sì, però che... mi scusi, io capisco il suo allarme, e meno male che ne parliamo. Però se comunque una domanda c'è di trasportare le merci, almeno quella dovrebbe essere garantita. Cioè, se c'è un eccesso di offerta, almeno si beccheranno quel poco di domanda che c'è, poco no, ma insomma, una domanda no. Questo oggi è, allora, non è vero che negli ultimi anni la domanda non è cresciuta e oggi sono venute meno le merci, perché è un settore che cresce in termini di domanda del 4% all'anno, ad eccezione del 2016, è un settore che ha una ottima crescita della domanda. Il problema è che l'offerta di trasporto via mare negli ultimi anni è cresciuto nella misura dell'8 e il 10% all'anno e quindi ha creato questa chiara sovracapacità. Il problema è che nel momento in cui i 12 principali operatori del mondo, perché sono 11 su 12 perché il 12esimo non produce bilanci, non rende pubblici i bilanci, hanno una conclamata crisi finanziaria e quindi stanno in piedi perché il sistema del credito, che sia pubblico o che sia privato, li tiene in piedi, è evidente che questo tessuto connettivo del sistema industriale a livello mondiale rischia ad un certo punto di collassare. E quindi questo è un problema generale a prescindere dal fatto che ad oggi il sistema dell'economia di scala, che porta le imprese a dover poi riempire le navi e per riempirle abbassano il prezzo del trasporto. Abbassando il prezzo del trasporto devono costruire navi sempre più grandi per cercare di bilanciare i ricavi con i costi. È un cane che si morde la coda che sta arrivando ed è arrivato con il caso Hanjin ad una sua prima evidenza. Mi scusi, Ducci, io so che poi lei ci deve lasciare, ma una domanda ce l'ho. Mi scusi, però mi faccia capire se le pressioni sui margini portano le grandi compagnie di trasporto a costruire navi sempre più grandi, super Panamax, super post Panamax e via così. Ci sarà un beneficio per chi queste merci deve trasportare, cioè io che devo trasportare un container verso l'Asia o riceverlo pagherò un po' di meno. Ma il problema per voi qual è? Cioè è più un problema dei grandi gruppi mondiali, cioè Maersk, appunto Hanjin. Ma voi come agenti e mediatori che avete casomai una compressione sui margini, questo sì, ma perché dici che è minacciata la globalizzazione? È minacciata perché nel momento in cui queste compagnie si fermano, come è capitato nel caso di Hanjin, le merci che ci sono a bordo, è vero che avevano pagato un nolo molto basso per essere trasportate, ma oggi si ritrovano bloccate in mezzo al mare. Noi stiamo parlando e con il rischio di non arrivare sui mercati. E quindi la certezza dei tempi, la sicurezza del trasporto e il basso costo, in un'analisi di rischio che l'industria deve fare della propria catena logistica, è evidente che con il caso Hanjin mette un punto interrogativo e rende estremamente più difficile pensare che in futuro l'industria potrà continuare a comportarsi in questo modo nei confronti dei trasporti. Perché il sistema ha dimostrato chiaramente come non esistono aziende troppo grandi per fallire se salta la settima compagnia mondiale e un sistema conclamato, perché ormai stiamo parlando di quasi 10 anni consecutivi di aziende che viaggiano con rossi di bilancio, non è più sostenibile da un sistema che faceva invece di questo settore un suo... Allora, mentre mi scrive un ascoltatore che ha una nave fuori Shanghai, un container con 30.000 euro di merci che non arriverà ad una fiera per ottobre in Cina sono guai per noi, immagino sempre per questo problema, perché è chiaro che se uno ha 30.000 euro di merci che deve portare una fiera in Cina e gli restano bloccate nei container, il danno è enorme. Ma la soluzione per lei quale sarebbe, Ducci, prima di salutarla? Noi abbiamo attivato Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti e Affari Esteri, che devo dire si sono mossi in maniera coesa e sono intervenute nei confronti del governo coreano per cercare di sbloccare la situazione, consentendo lo sbarco, il fine viaggio e lo sbarco delle merci. Questo sta avvenendo in alcuni paesi, negli Stati Uniti ad esempio si è creata una procedura che sta consentendo queste navi di entrare nei porti e scaricare le merci. Idem dobbiamo fare nel nostro paese. È di questa mattina uno scambio di corrispondenza con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che ha ricevuto una nota dall'ambasciata italiana in Corea, perché ormai il governo italiano si è attivato in prima persona nei confronti del governo coreano per trovare una soluzione per questi migliaia di contenitori con merci italiane in import e in export che devono essere sbloccati. Allora, mi scrive anche un altro ascoltatore: la mia azienda sta trasportando in Cina dei macchinari per una fiera, ma sono bloccati per il caso Hanjin. Vedi che poi i problemi ci sono anche molto molto concreti e pragmatici. Grazie intanto a Gianenzo Ducci, grazie anche per l'attesa a Gian Paolo Botta, a cui dopo il traffico chiederò intanto la sua analisi, se concorda con Ducci oppure no, e anche che cosa si può fare, visto che di tutto abbiamo bisogno, tranne che della difficoltà anche a trasportare merci quando c'è la domanda e macchinari appunto quando c'è la domanda, o addirittura per fiere nei paesi che cerchiamo di non aggredire, ma dove cerchiamo di diversificare, dopo anni che stiamo spiegando che solo l'export in questi anni di difficoltà ha attenuato gli effetti della crisi dei consumi, della crisi economica più generale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta Focus Economia. minuti, fra poco arriveremo anche alla borsa. Allora, Giampaolo Botta è d'accordo con quanto diceva il suo collega, diciamo così, Gianenzo Ducci, e le soluzioni? Ma allora, certamente condivido le riflessioni che ha fatto il collega Gianenzo Ducci, con cui tra l'altro abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando in questi giorni per cercare di dare una risposta agli importatori e anche agli esportatori italiani che si trovano ad avere merce caricata. Ora, è ferma. Le soluzioni purtroppo sono in parte, diciamo così, fruibili nel momento in cui noi abbiamo attivato questa polizza globale che consentirà agli spedizionieri e anche alle imprese importatrici di poter rientrare in possesso quindi di questi contenitori una volta che verranno sbarcati in porti italiani. La questione è farli sbarcare in Italia, perché ovviamente in una situazione quale quella che è stata descritta c'è ancora incertezza su quello che sarà il futuro di alcune navi che sono in rada davanti per esempio a Jeddah o ancora in Estremo Oriente, che erano state schedulate, quindi previste arrivare in porti italiani nei prossimi giorni e il cui arrivo è ancora, diciamo così, nell'incertezza. Noi stiamo operando con Fedespedi, con Confetra, con Federagenti, con tutte le nostre realtà nazionali, anche attraverso e grazie all'aiuto dei ministeri che ha citato il collega Gianenzo Ducci, nel tentativo di portare il carico di queste navi in Italia, così da riuscire, anche attraverso poi la polizza che abbiamo sottoscritto, a rendere più facile e meno onerosa possibile l'importazione e l'arrivo di questi contenitori. Altro discorso invece è da fare per quanto riguarda invece la merce in esportazione. Qui la situazione è più complessa, perché molti contenitori si possono trovare su navi in qualsiasi parte del mondo e qui l'incertezza devo dire che è maggiore. Tra l'altro mi scrive un ascoltatore, però gliela giro, dice che in questo modo si rompono, per questa pressione fortissima sui margini, sugli utili, si rompono i cartelli di co-shipping che salvavano i bilanci dei trasportatori, è vero? E cosa vuol dire? Ma guardi, che si rompano queste alleanze è ancora un attimo da verificare, nel senso che sicuramente il crollo, il fallimento, il crack Belangin ha portato alcuni operatori, alcuni concorrenti a avanzare nuove offerte di trasporto, meno male, soprattutto sulle rotte transpacifiche, sono quelle che coprivano in maniera più importante la flotta Angin. I riflessi sul mercato sono ancora da verificare e da quantificare. Io rimarrei più che altro concentrato sull'aspetto legato alla possibilità di riportare in Italia i contenitori che sono stati imbarcati e che in origine erano previsti sbarcare nel nostro paese. Direi che come sistema e come operatori ci stiamo concentrando su questo primo obiettivo. Poi passeremo a tutti i successivi, nel senso che comunque poi le imprese di spedizioni e tutti coloro che comunque hanno subito un danno, un ritardo, dovremo ragionare su come poter, se ci sarà la possibilità, di rivalersi in qualche modo o di poter agire. Allora, grazie, noi terremo monitorato il settore, sperando che poi questa crisi sia stata solo la parte più virulenta e poi si riesca a trovare anche una mediazione. Il tema comunque mi sembra chiarissimo, e anche a questo punto la corsa ad accaparrarsi il trasporto merci lavorando sui margini più bassi, ma mettendo poi a rischio l'intero settore. Grazie anche a chi rappresenta appunto l'associazione degli spedizionieri corrieri e trasportatori di Genova, Giampaolo Botta. andiamo sulla borsa con questa nuova base che oggi mi tengo tutta la puntata, così la imparo a memoria. Più 0,70% Milano, più 0,20% Parigi, meno 0,30% Francoforte, meno 0,20% l'America e più 1% Londra. Bene oggi tutti gli energetici, male invece Steam Microelectronics, bene per l'OPEC di cui parleremo più avanti, Tenaris più 9,30%, Saipem più 5,40%, Eni più 4,60%. Male invece ST Microelectronics meno 3,20, UbiBank meno 2,80, Monte dei Paschi meno 2,70, Luxottica meno 2,5%, ne parliamo dopo il GR24. Il numero per i vostri sms resta 349-238-6666, sms e chiaramente WhatsApp. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Focus Economia. I wanna be free, set free. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa, poi l'OPEC e le pensioni. I titoli migliori e peggiori li abbiamo detti prima, con in evidenza tutto il settore del legato al petrolio, e invece appunto debole ST Microelectronics, UbiBank e Monte dei Paschi. Vado avanti con Luxottica meno 2,5, Unipol meno 2,40, Mediobanca meno 1,90. Tra chi è in positivo anche CNH Industrial più 1,70, Azimut più 1,5, Fiat Chrysler più 1,20 e Snam più 0,80. E poi anche Mediobanca meno 1,90, Iux meno 1,40, Unicredit meno 1,30, Unipolsai meno 1,20, Mediaset meno 1 come Moncler. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo l'OPEC, ne parleremo tra un attimo, è quello che spinge al rialzo l'accordo che ormai sembra raggiunto per diminuire la produzione. Tenaris più 9,35, Saipem più 5,40, Eni più 4,60, A2A più 2,20. Ancora UbiBank invece e Monte dei Paschi, ma anche Fiat. Sì, UbiBanca in verità è andata male sin dalle prime battute di questa mattina, e questo perché proprio il Sole 24 Ore quest'oggi ha detto che alle battute finali la trattativa da parte dell'istituto per rilevare le good banks di CR Chieti, Banca Marche e Banca Etruria. E il problema è che il mercato teme che per rilevare queste banche l'istituto UBI sia costretto poi a effettuare un aumento di capitale, si ragiona proprio su un aumento di capitale da 300 quanto 400 milioni di euro. E come si sa, quando sono nell'area gli aumenti di capitale, i titoli ne soffrono. Per quanto riguarda MPS, è girato soprattutto nel pomeriggio, alla fine ha chiuso meno 2,69%, anche qui è scattato un po' il conto alla rovescia per la presentazione del piano industriale che è stato fissato da Morelli il 24 ottobre, ma soprattutto il mercato fa i conti con il fatto che la banca dovrà confrontarsi con un aumento di capitale consistente, in teoria di 5 miliardi, che potrebbe scendere se saranno convertite le obbligazioni subordinate in azioni a 2-3 miliardi, comunque un aumento di capitale consistente rispetto all'attuale capitalizzazione che è pari solamente a 552 milioni di euro. E quindi appunto gli investitori prendono un atteggiamento prudente. Per quanto riguarda invece FCA, si è distinta in positivo e pur chiudendo sotto i massimi di giornata ha fatto solo più 1,19%, faceva meglio nel durante della seduta, nel giorno in cui sono arrivate un po' di notizie da Parigi dove si tiene il salone dell'auto. In particolare sono piaciute le dichiarazioni del numero uno di Maserati che ha detto che a settembre le vendite di Maserati sono andate molto bene, sono addirittura salite del 40% su base annua. Inoltre il manager ha confermato che il prossimo novembre a Los Angeles sarà presentato il SUV dell'Alfa Romeo Stelvio, che poi verrà commercializzato a partire dal primo trimestre del 2017. Allora, questo per quello che riguarda appunto UBI, Monte dei Paschi e Fiat Chrysler. Tra l'altro su Mediaset oggi il titolo non si è mosso, adesso lo sto riprendendo, oddio, non si è mosso tantissimo, però sappiamo che da giorni sotto i riflettori per via della vicenda Vivendi e di cosa fare di Mediaset Premium, perso l'1% nel finale e anche su Telecom, così chiudiamo su Mediaset e Telecom. Sì, certo, Mediaset è tenuta sotto la lente in questi giorni perché proprio domani, ricordiamo, scade l'accordo vincolante che Mediaset aveva firmato lo scorso 8 aprile con i francesi di Vivendi, valutando la società a 756 milioni, poi ricordiamo che quest'estate invece Vivendi ha fatto marcia indietro, quindi da domani appunto scade questo accordo, è tutto da vedere cosa succederà, se nel frattempo sono state raggiunte delle soluzioni o se piuttosto si andrà effettivamente in tribunale. E poi sullo sfondo rimane anche il rumors che in verità Silvio Berlusconi in questi giorni potrebbe volare a New York e incontrare lo stesso Rupert Murdoch, chissà, per un accordo alla fine e del tutto a sorpresa con Sky, sempre per vendere certo. Premium. Rimane sullo sfondo inoltre anche Telecom Italia, non solo perché domani si riunirà il consiglio di amministrazione, ma perché domani, quindi sarà a Milano proprio per il consiglio di amministrazione di Telecom Italia, De Puy Fontaine, che è il vicepresidente di Telecom Italia ma anche il numero uno di Vivendi, e chissà che non incontri i vertici di Mediaset. Inoltre, sempre secondo ipotesi e indiscrezioni, Telecom Italia potrebbe entrare nella partita premium, anche se proprio nei giorni scorsi il presidente Recchi ha detto che non sono all'opera su questo dossier. E poi resta sullo sfondo anche l'ipotesi Sky, insomma di tutto e di più, migliori e peggiori, Tenaris più 9,35% appunto, Industria e Innovazione più 9,30%, Mondadori Editore che ha annunciato la cessione del Bompiani più 6,80%, Saipem più 5,40%, Trevi più 4,70%, il fronte opposto Nertronica meno 13%, Safebag meno 7,40%, Heidelberg Cement meno 6,30%, Vita società editoriale meno 6% come Molmed e Metorios Capital. Grazie Eleonora Micheli, Radio Colli sulle 24 ore. Noi restiamo sul tema sia di borsa che di trasporti marittimi, perché adesso parliamo di petrolio. E devo dire che il tema che abbiamo affrontato nella prima ora, la crisi del trasporto marittimo dopo il fallimento del colosso sudcoreano, ma la crisi generale, continua a ricevere, diciamo, un feedback da parte degli ascoltatori, perché continuate a scriverci. Ne leggo uno per tutti: sono un rappresentante nel settore pronto moda e sono in ritardo di 40 giorni nella consegna del tessuto, alla faccia del pronto moda, non le dico il danno economico che ci stanno causando gli annullamenti degli ordini. We'll be right back. Allora, invece il petrolio si riaccende, per carità, ma insomma ha fatto un'impennata del 6%, è tornato a $47 al barile. Sembra che l'accordo che verrà ratificato, se ben capito, a fine novembre, ma ci sia, per far scendere per la prima volta dopo 8 anni la produzione a 32 milioni e mezzo di barili al mese, quindi da 33,2 a 32,5 milioni di barili. Sissi Bellomo, che per le sue 24 ore segue tutti i giorni i temi delle commodities e in particolare del petrolio, buonasera. Buonasera. Ecco, Sissi, ma cosa vuol dire che ha vinto, dunque, è salvo l'Iran e pagherà l'Arabia Saudita? Perché a me che si sia arrivati a questo accordo sembra comunque una sconfitta dell'Arabia Saudita, che sia per combattere il petrolio, lo shale oil americano, cercando di sbattere fuori mercato con un prezzo del petrolio troppo basso, sia per il braccio di ferro con l'Iran, era stato il paese che più si era opposto a una riduzione della produzione. Questa riduzione della produzione a cui si opponeva però non ha dato abbastanza rapidamente i risultati che ci si aspettava. I concorrenti del petrolio tradizionale hanno sì tagliato gli investimenti, ma il risultato tarda a venire in termini di riduzione dell'offerta. E lo shale oil funziona con meccanismi tutti suoi, per cui è molto rapido, e questo infatti è il rischio, che se il petrolio torna a risalire ricomincia a salire anche la produzione shale oil. Ma l'accordo dell'OPEC è vero, rappresenta un passo importante, se non altro perché si sono dati nuovamente un tetto collettivo di produzione, e non è cosa da poco, hanno perso anche quello, ma è ancora un accordo a metà, lo chiamerei più una scommessa. In realtà la parte più difficile, cioè dividere tra i vari paesi dell'OPEC i tagli, i sacrifici che ciascuno deve sopportare, non è ancora fatta, e anzi oggi c'è già l'Iraq che sta protestando, Arabia Saudita e Iran, si parla soprattutto di loro perché era tra loro il braccio di ferro nei mesi scorsi, le loro posizioni forse si sono avvicinate, si sono ammorbidite. È vero senz'altro, come ricordavi tu, perché l'Arabia Saudita ha sofferto molto per questo calo del petrolio, la sua economia resta fortissima, ma stanno bruciando riserve valutarie a un ritmo enorme, hanno addirittura dovuto tagliare del 20% gli stipendi dei dipendenti pubblici, che da quelle parti è una cosa, un tabù incredibile, fino a poco tempo fa era. E certo. E quindi sono più morbidi a trattare, certo, però l'accordo è fatto fino a un certo punto, la formalizzazione a fine quindi novembre. Mi sembra che il tuo punto di vista, insomma, che è particolarmente rilevante, sia un po' più prudente rispetto alle agenzie che davano per certo l'accordo e la sua ratifica il 30 di novembre. Guarda, è già importantissimo che un accordo, anche solo un pezzettino d'accordo, l'abbiano fatto, non lo facevano. Beh, importantissimo per loro, a noi ci fa, a noi non ci fa comodo. Per loro, per ricostruire la loro unità. Ma l'OPEC ha perso moltissimo della sua capacità di incidere sui mercati per la presenza dello shale oil, ma anche perché andiamo verso un futuro in cui i consumi di combustibili fossili tenderanno ad appiattirsi, a ridursi. Nei paesi sviluppati hanno già raggiunto un picco, e nei paesi in via di sviluppo continueranno a crescere, ma la strada tracciata è questa, e l'OPEC ha perso molta della sua rilevanza per via dello shale oil e per via di questa tendenza a contenere comunque i consumi di combustibili fossili. Loro stanno cercando di ricostruire un'unità. Per adesso la cosa che riescono a fare meglio, e ci riescono, per questo che non sono ancora morti, e a muovere il mercato con le parole, sono diventati bravissimi come, come i banchieri centrali più incalliti. Oh, va bene, mi piace il paragone. No, mi fate notare che ho detto no. Allora, la produzione scenderà se l'accordo verrà ratificato, da 33,2 milioni di barili al giorno, che era la media del mese scorso, la crasi ha fatto sembrare che fossero al mese, a 32,5 di milioni di barili al giorno. Staremo a vedere. Grazie intanto a Sissi Bellomo. Traffico e poi le pensioni. JP Morgan Asset Management vi presenta Focus Economia. Abbiamo tolto la parte agricola, diciamo le tasse agricole su IMU e su IRAP. non lo sa ancora nessuno, ma nel quadro economico del DEF, è quel documento che abbiamo presentato 3 o 4 giorni fa e che poi a cui seguirà la legge di stabilità il 15 di ottobre, e quindi lo vedrete scritto in legge di stabilità, abbiamo previsto un ulteriore elemento. La parte di IRPEF agricola che voi pagate sarà cancellata a partire dal 2017. Così il Presidente del Consiglio oggi alla Coldiretti e il Ministro Martina, Ministro dell'Agricoltura, che ha fatto notare come ammonti a 1.300.000.000 in meno la riduzione delle tasse per il mondo dell'agricoltura in 2 anni. E però oggi parliamo, lo fa il Sole 24 Ore con delle bellissime simulazioni a pagina 5 oggi del quotidiano, dell'ape. Non è l'aperitivo per alcune, diciamo, sciure milanesi vista l'ora, ma è l'ape, l'anticipo della pensione volontaria, uscita prima con la penalizzazione che abbiamo ricordato, mentre il governo ha fatto sapere che ci sono sostanzialmente 6 miliardi in materia pensionistica per i prossimi 3 anni, in materia previdenziale. L'anno prossimo il finanziamento sarà di 1.500.000.000, 1.700.000.000. I sindacati le giudicano insufficienti. Però vorrei sapere da Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera Davide. Buonasera. Questi soldi sono solo per la 14ª che verrà estesa a 1.200.000 pensionati in più, quindi alzando il tetto per percepire la 1.000 euro, o rientra anche il resto, cioè ape e non ape? No, dovrebbe essere la spesa complessiva, la maggiore spesa evidentemente in deficit che si farà. Per le 14esime la cifra che gira è di 700 milioni circa all'anno. Esatto, all'anno è una spesa ovviamente questa qua lineare, mentre altre hanno una curva in salita evidentemente, per esempio la spesa che è legata ai lavoratori precoci in uscita con un'agevolazione, piuttosto che agli usuranti cui vengono riconosciuti dei vincoli po' più facilitati, ecco, le curve di spesa di queste voci avranno un andamento un po' più in rialzo, partono da 100 milioni l'anno circa e per poi salire. La cifra che dicevi tu è quella che circola, cioè nel primo anno ci sarebbe un impegno di 1.500 milioni circa, 1.400 milioni forse. Nei primi 3 anni la spesa complessiva dichiarata dal ministro Poletti invece è di 6 miliardi. L'APE dovrebbe costare solo nella sua versione social, diciamo, cioè quella agevolata per i disoccupati di lungo corso o le figure di lavoratori che si trovano in situazioni di particolare disagio, dovrebbe costare tra i 400 e i 500 milioni. È una misura sperimentale che parte con un biennio alla fine del quale evidentemente ci sarà un check per verificarne la possibilità di trasformazione in una misura strutturale. Ecco, veniamo all'ape, perché voi oggi non ne sono, non posso raccontare tutta la simulazione che fate, però insomma, a chi conviene, fermo restando che poi molti sono anche scelte molto personali, a chi conviene? E ricordiamo però anche che cosa prevede per invece i lavori usuranti o i lavori precari, dei lavori precoci, scusami. Intanto i precoci si sta ancora definendo quale sarà la platea effettiva. L'ultima ipotesi è quella di chi ha cominciato a lavorare prima dei 16 anni, sì, e ha lavorato per esempio per almeno un anno complessivo prima di quell'età. Allora in questo caso si sta ragionando appunto su un bonus fiscalizzato, un bonus figurativo a carico della fiscalità generale, per consentire a questi lavoratori di arrivare a 41 anni o 41 anni e 10 mesi per il pensionamento anticipato, quindi con un anticipo di un anno sui lavoratori dipendenti ordinari, diciamo. Dicevi a chi conviene l'APE, ma l'APE è, sì, ovviamente... avete simulato appunto l'APE aziendale, l'APE volontaria. Allora, diciamo che per come è concepito questo prestito ponte, dovrebbe attivare dei canali di utilizzo abbastanza come dire, intuibili per quello che riguarda la cosiddetta APE agevolata, cioè appunto un allungamento, una sorta di prestito ponte per consentire a chi ha finito l'ammortizzatore sociale a 61 o 63 anni, si trova a 3 anni diciamo dai requisiti di pensionamento di vecchiaia, allora trova in questo prestito ponte un modo di tutela che va oltre l'ammortizzatore scaduto. L'APE aziendale invece prevista, come dire, con una onerosità a carico delle imprese, le quali pagherebbero in tutto e in parte il rimborso appunto dell'anticipo bancario, potrebbe essere interessante appunto per i casi di ristrutturazione. Sì. L'ultima che resta è questa APE volontaria, invece è semplicemente per chi sceglie di uscire con un anticipo fino a un massimo di 3 anni e 7 mesi rispetto ai requisiti ordinari, però pagando. Allora, questo pagando dipende dal suo livello di reddito, certo. C'è un'agevolazione fiscale prevista, però potrebbe arrivare attorno a circa il 6% l'anno. Allora, se tu fai un anticipo di 3,7 anni, puoi arrivare ad avere un onere cumulato attorno al 20%. Mm-hmm. E lì sta il calcolo. Se io voglio uscire 3 anni e mezzo, quasi 4 anni prima, e però come dire, perdo sulla mia pensione a regime circa un 6% per ognuno degli anni che ho anticipato, devo farmi qualche conto. Di solito, ecco, si fa riferimento al costo del rimborso del prestito bancario in quota capitale, in quota interessi e l'assicurazione, e si trascura un altro costo che è implicito. Nel sistema contributivo, se si rinuncia a 1, 2 o 3 anni, si perdono contribuzioni che aumentano il nostro conto contributivo nozionale, che poi è il montante che viene utilizzato come base di calcolo della prestazione pensionistica a regime. E perdere 3 anni può incidere molto sull'assegno a regime, a prescindere dal fatto che lo devi rimborsare. Certo. Cioè puoi perdere una quota anche di qualche punto percentuale. Perché sulla non vengono più finale. Certo, non vengono più calcolati come gli anni, il totale degli anni che, diciamo, su cui si basa poi l'assegno a regime. È fatto bene ricordare questo, perché noi sottolineiamo sempre altri costi, fermo restando che poi la valutazione riguarda anche molto la sfera privata. E appunto le condizioni in cui uno si trova. Grazie a Davide Colombo. Mi chiede un ascoltatore: lei ha fatto uno svarione innamorato? Guardi, se fossi innamorato ogni volta che faccio uno svarione sarei sempre innamorato, per cui insomma no. No, nel senso che gli svarioni capitano, il resto sono fatti miei. Intanto vi auguro buona serata, domani ci risentiamo dalle 17 in poi, dove torna anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.